spiego me, siamo in tanti. Sta città è così stretta, tu di rifretta. Cambio maglietta, dopo amici, sudori e pianti. Mangiamo negli stessi piatti, caldi. Secondo dopo il dolce, siamo freddi e distanti. E sai che? State raramente. I palazzi ti sorridono, torna a casa raramente. Tutta una frode, fanculo a chi fingeva di volermi bene. Errore, guardami spiccare il volo. Di nuovo, da solo, uomo. Sì. Aspetti fuori, fuori completamente. Un via via di gente, uso la lente. Vesti microbi, indico, bianco indaco. Salva gente per Pamela, Anderson. Che se ne andassero, ce ne ho mandati così tanti in quel paese che mi ha fatto sindaco. Aspetto che sta gente cresce. Terra di nessuno, terra che mi cresce. Accanto lunghe trecce, foto la passione. Mi ammo di frecce, che Cupido non la prende la pensione. Quindi attenzione. Fuoco brucia e le parole lasciano lesioni al cuore. Non c'è perdone senza scusa. Giochiamo a fare gli omnipotenti. Nuova dittatura, sta città è tua. Fammi cazzo di piacere, suca. Terra di nessuno, ci vedi qualcuno. Accesi un fiammifero per il troppo buio. Sì, per vederci meglio. Tra finocchi esaltati e morti, giuro. Che vero scopo era di fissarli dritto dentro agli occhi. Mentre li mando a fare in culo. Sì. Chiedo perdono a chi ho tradito. Mi hai perdonato l'amico che non mi ha capito. La gente si crede vittima di un incidente. Quando è colpevole fa fida di niente. Sta terra cambia, come cambia la gente. Il tempo non aggiusta un cazzo, anzi. Guarda dai nonni ad oggi come siamo combinati. La terra piange e noi ridiamo con l'ossigeno sporco che abbiamo creato. Ce si attiamo postandolo. Gimonello.